Ciao Simona, allora guarda, sono in macchina, sto andando a Genova a un seminario di geografia e scrivere mi mette male, quindi provo a fare un vocale, anche se le idee sono tante, cercare di metterle in ordine così in questa situazione non è facile, però così ti do una risposta subito. Va bene, intanto sì, è stato un bel momento, un bel incontro, ti ringrazio di avermi invitato ed è stato, come ti ho detto alla fine dell'incontro, ma non lo ripeto perché è triste dirlo, però sì, un momento importante, ecco, ti ricorderai cosa ti ho detto. Poi mi ha fatto piacere vedere che ci sono ancora delle associazioni che si occupano di territorio, di qualità della vita, perché pensavo, nella mia testa, pensavo che fossero scomparse, e invece perlomeno nella nostra area geografica, invece perlomeno esistono ancora, mi fa piacere saperlo, seppur diciamo piccole, sconosciute. Ok, scusa perché sto anche guidando, quindi cosa mi è venuto in mente? Ecco, da quel giorno mi risuonano nella testa delle parole che sono degrado urbano. Anzi, addirittura ho cominciato a fare delle fotografie agli ambienti scolastici, ieri in via Dante, oggi in via del Rogetto. Sto pensando a come i nostri ragazzi, e anche noi adulti, siamo talmente abituati al degrado urbano che per noi è normale, tristemente normale. Non ci rendiamo neanche conto di quanto possa essere migliore un ambiente urbano. È un po' come se ce l'avessimo sotto pelle, no? Questo senso di bruttezza invece di un senso di bellezza. La bellezza è un po' diventata utopica. Albenga in particolare, io sono di Albenga, quindi mi fa male dirlo, ma è una città brutta. Brutta, dove non c'è nessuna pianificazione urbana, dove oggi ne parlavo con i colleghi, mancano le panchine nei giardini pubblici, i giardini non sono mantenuti. E mi vengono in mente le parole di un urbanista statunitense, si chiama Lewis Mumford, credo che si scrive Mumford, ma si legge penso Mumford. Adesso non ricordo le parole esatte, però il contenuto è questo della sua teoria, che i bambini giocano a distanza di poche centinaia di metri da casa, no? E se la città fosse organizzata a misura di bambino, probabilmente sarebbe migliore, però le esigenze dei bambini non le consideriamo mai, come non consideriamo mai le esigenze dei disabili. Una città a misura di disabile come a misura di bambino sarebbe una città ideale, accessibile, sostenibile. E perché mi vengono in mente queste parole? Perché vedere quelle foto di cementificazione continua, di degrado urbano e sociale, perché poi immaginiamo le persone che vivono in un condominio, in un appartamento al 14° piano di un condominio in una grande città dove non vedi altro che altri condomini dalla finestra di casa. Cioè, che futuro possono aspettarsi queste persone, i figli di queste famiglie? Ecco, lo vedo molto triste, il gigantismo urbano, no? Come si dice tra i geografi, cioè la continua cementificazione, la continua crescita delle città, legata anche alla continua crescita della popolazione, imprigiona le persone dentro questa bruttezza. Forse, adesso mi viene in mente Parigi, no? Parigi ha lanciato un progetto, la città a 15 minuti, cioè un cittadino deve avere tutti i servizi a distanza di 15 minuti. All'interno di grandi città, composte da decine di anche decine di milioni di abitanti, bisogna che ci siano delle organizzazioni, un'organizzazione micidiale, no? Ma anche una pianificazione urbana importante, cosa che noi in Italia non facciamo, non abbiamo mai fatto, credo, perché basta guardare le nostre città come sono pianificate e sono antiumane. Quindi nulla, questa bruttezza che ci portiamo sotto pelle, ecco, questo senso del degrado urbano che abbiamo dentro di noi, ormai diciamo fa parte del nostro DNA, perché non conosciamo, soprattutto i ragazzi, i giovani, i bambini, non conoscono alternativa alla bellezza urbana che è possibile. Boh, non so se è quello che si aspettano dalle parole che mi hai chiesto, che vi aspettate, però il mio pensiero, quello che mi frulla per la testa adesso è questo. Ciao, ciao, ciao.